Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ma buona domenica! Buona domenica! State preparando la pasta al forno? Adesso alle 12 di domenica, cosa vuoi fare? All'alba, ci sarà già della domenica. All'alba, alle 12 di domenica, ma all'alba per te che te ne vai ancora in discoteca a quest'età, mi lasci da solo a casa. È per quello mi mantengo bene, capisci? Perché infatti, a parte che ti lascio solo a casa, chissà cosa hai combinato stanotte. Chissà cosa combini tu a casa da solo, Ciccio. I party, le feste faccio. Le feste faccio. Le feste. Io ho fatto da 2 giorni 53 anni. Ma no, che cacchio dico? Mi aumento un anno. Sai che sono rincoglionita? 52. Da lì si evince che gli anni passano e sono rincoglionita. No, perché tu hai sempre quel ragionamento del cavolo che dici, siccome ne ho fatti cosa 52, urli? Entro nei 53. Ma è vero? Compiere vuol dire finire appunto, un anno e iniziarne un altro. Appunto. Io purtroppo ne ho compiuti 52. Perfetto. Quindi vuol dire che ne ho finiti 52, in realtà ne ho 53, quindi ho detto giusto. E ho sempre ragione. Ma come hai detto la stronzata giornaliera? Ma tu hai detto la stronzata giornaliera. Grazie Peter che mi ero male. No, grazie Peter, grazie che l'hai scritto, che l'hai mandato, proprio perché Angelo non capisci, ma non capisci uguale, anche se c'ha 10 anni meno di me. Ma secondo te tu ti devi dire... Guarda che non ne posso più. Capisci, grazie Peter. Ma grazie è Peter, te lo dico io. Lo dico io. Se ti fa piacere dirti che hai 53 anni, ma sono entrata quando nei 53. Quando invece ne hai compiuti solo 52, va bene. Poi voglio dire, io non li dimostro. L'età psicologica né è molto più importante di quella anagrafica, capito? Appunto. Quindi, e tu ti dici che ne hai 53. Ma per favore, ma dai, ma parliamo di cose serie. Ma guardiamo il mondo dalla prospettiva degli animali. Ma dai, che non, che non contano gli anni. Ma allora, avevo parlato di, volevo parlare dei 10 punti nella relazione fra uomo e cane. Parliamo di cose serie, perché di questi pettegolezzi da focolare di casa nostro non gliene frega niente a nessuno. Piace molto però il fatto che io ho sempre ragione. Allora, i 10 punti appunto che nella relazione col cane. Avevamo già parlato del primo punto, che era abbandona velocemente l'idea di essere un capo. Abbandonala però questa idea di essere un capo, perché io, abbandonala. Tu la devi abbandonare? Io no. Secondo punto, lasciali abitare casa tua, non solo il giardino. Sì. Ascoltatevi i podcast precedenti. Poi sono io la vecchia. Terzo punto, approfitta di ogni occasione per renderlo partecipe della tua vita. Sì. Quarto punto, quello di oggi, mettiti nei suoi panni e guarda le cose dal suo punto di vista. Ma veramente? Mi sembra di averla già sentita questa cosa. E questo è il chiedimi se sono felice, cioè io devo il guardare mondo della le prospettiva animale. Animale o del cane, come siamo partiti, quindi il fatto di metterci nei panni del cane. Però allora ci hanno sentito dire tante volte questa cosa, tanto che questa stessa trasmissione è fondata su questo punto, no? Esatto. Allora dobbiamo chiederci però a questo punto, ma come si fa? Cioè ci sono dei trucchi. Allora vi do 4,5 modi di mettervi nei panni del cane. Wow, parti. Allora, primo, vivere il cane, ed è il punto precedente, andatevi ad ascoltare il podcast per saperne di più. Si tratta semplicemente di lasciargli abitare la nostra vita, no? Ok. Poi, secondo punto, perché questo è quello che possono fare tutti, no? Secondo punto, se vuoi andare ancora più a fondo, è imparare a leggere il cane. Quando tu impari a leggere il cane, conosci la sua postura, sì, i suoi segnali calmanti, sì, la sua espressione del volto, e te ne lasci contaminare, quindi diventi più sensibile, più aperto a quello che lui dice. Okay. Quindi questo è il secondo punto. Terzo punto, arrivato al fatto di leggere il cane, puoi ricalcarlo. Allora, il famoso ricalco. Il famoso, poi non so se per chi ci ascolta, qualche volta forse ne abbiamo parlato, però il ricalco significa che tu ti metti a fare le stesse cose del cane. Io mi ricordo tempo fa avevo intervistato Marco Iacoboni, che è un luminare dei neuroni specchio, vive negli Stati Uniti oggi, è un ricercatore. Lui diceva, guarda, abbiamo scoperto che per stimolare questa parte di neuroni che sono deputati all'empatia, al mettersi nei panni dell'altro, eccetera, eccetera, bisogna imitare, ma non imitare in modo come un pappagallo, gallo, no? In modo scimmiesco, in modo così. Bisogna imitare per farlo sentire la più a suo agio, tu intendi, no? Per farlo sentire più compreso. Ti faccio un esempio, io faccio un passo in avanti perché voglio dire ad un cane, ciao piccolo, vieni qua, ti voglio fare una carezza. Il cane magari fa un passo indietro. E quindi tu devi fare un passo indietro. Faccio un passo indietro, ricalco, do anch'io distanza. Il cane lì in quel momento mi guarda come per dire, wow, ha capito. Terzo punto, era il ricalco. Il quarto punto è fare esercizi che stimolino la nostra mente ad essere più flessibile. Io per esempio faccio bendare le persone, le faccio andare in giro, qualche volta l'hai visto questo esercizio. Anche a te ti bendo ogni tanto. Ecco, sorvoliamo sui dettagli. In realtà è il contrario. E ti mando in giro per casa. Voglio ricordarlo. E ti mando in giro per casa bendato, urtare, farti venire i lividi. Senti, vabbè, ma riprendiamo, perché dobbiamo... Allora, esercizi, oppure, ecco, adesso stavo per dire, oppure imitare il cane, tipo camminare a quattro zampe. Non voglio battute però su questa cosa qua. Vabbè, quarto punto, sul piatto d'argento. Quarto sì? punto, virgola 5, è conoscerlo meglio, perché ci sono delle convinzioni che a volte noi abbiamo che sono limitanti. Per esempio, molta gente è convinta che un cane sia soltanto un cane e che ha un cervello più piccolo e più, come posso dire, meno capace di quello di un essere umano. E in realtà ogni animale ha la sua intelligenza, certo. I cani sono specializzati per altre cose. La cosa importante però da sapere è che ha un cervello che possiamo definire tripartito, cioè ha tre sezioni, come la nostra, che sono deputate alla sopravvivenza, poi c'è la parte emotiva e affettiva, no? Che è la parte limbica, e poi c'è la neocorteccia esattamente come la nostra. Quindi il cane è capace di vivere delle emozioni, fare piani, giocare, gioire e anche costruire strategie, avere aspettative, no? Rappresentazioni della realtà. Quindi sapendo questo posso entrare maggiormente nella mente del cane per avere il suo punto di vista. Ecco, riflettete su questi punti. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous la maison. Bonjour Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Beh, quindi... Guarda, mi è arrivato per le mani l'ultimo libro di Igor Sibaldi. Scusami, era già, anzi, anche una dedica, anzi, a tutti è arrivato due. Praticamente a te, dalla Salani. Ah, ecco. Allora, si chiama Al di là del deserto, che cos'è la metafisica e come adoperarla per cambiare vita. Allora, sono molto curioso, lo stavo sfogliando, essendo Igor, insomma, una persona che stimiamo molto. E ora anche un amico di cui siamo fieri. No, ma tra l'altro, sai cosa? Sai che lui parla molto dell'aldilà, no? Mm-hmm. L'aldilà e via dicendo. Ho delle concezioni tutte sue su che cos'è l'aldilà, ma siamo qui con una persona che si occupa di un momento molto particolare, che è la fine della vita. E pensa, c'è una scienza che si occupa proprio di questo, che è la tanatologia. Allora ci facciamo spiegare proprio dall'esperta di questa materia di che cosa si tratta. Cercheremo di tracciare dei paralleli tra l'accompagnamento alla fine della vita degli animali e quello negli esseri umani. È con noi Daniela Muggia. Daniela, ciao. Ciao, ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, io conosco Daniela perché è un po' di tempo che la seguo, ma soprattutto mi ha colpito un libro che noi abbiamo già citato tempo fa, scritto insieme a Stefano Cattinelli, che si chiama Tenersi per zampa fino alla fine. Sì, ne abbiamo parlato tanto. Esatto, siccome sempre più persone, cioè sembra, Daniela, che ci sia in campo animale un'attenzione sempre maggiore a questo argomento, nel senso che negli anni... Di capire come affrontarlo, qual è il migliore dei modi sì, per affrontarlo. Negli anni, a parte, sai, che ne so, i segnali forse più evidenti, l'aumento dei cimiteri per gli animali, il fatto che noi rifiutiamo ultimamente di far incenerire il nostro cane insieme agli altri, sai, come si faceva una volta con l'ASL, certo. Eccetera, voglio il mio cimitero, voglio poter, oppure le ceneri del mio animale, voglio fare questa cosa qui, e sempre più persone mi contattano disperate perché mi dicono che cosa mi sta succedendo, ci sono interrogativi che sorgono proprio adesso, io non me li sono mai posti ed è difficile rispondere perché il mio cane sta male, quindi so che dovrò lasciarlo e questa è una cosa che mi distrugge, oppure è morto e io non so che pesce pigliare. E te ti sei data, non so. Ma io credo che questo sia, come dire, del tutto naturale, perché abbiamo un istinto di protezione nei confronti delle persone e anche degli animali più fragili, perché comunque noi li accomuniamo nelle nostre famiglie assolutamente ai membri della famiglia, sono membri della famiglia. Pelosi, certo, o Pelosi, però membri della famiglia. I migliori membri della famiglia. Soprattutto poi. Direi che, o comunque speciali. Mm. Io credo soprattutto che in questo momento le persone incomincino ad avere una reazione interiore alla pratica dell'eutanasia che viene presentata come l'unica forma di compassione. Sì, sì. Ora, che è drammatica, è eh? Sì, è drammatica anche perché ti assicuro che quando poi queste persone, cioè io accompagno anche le persone, soprattutto le persone, mm-hmm, alla fine della vita, e quando arrivano alla fine della vita è come se tutte queste cose, questi vissuti difficili emergessero, e molti hanno davvero un vissuto molto difficile con cui finiscono per avere difficoltà anche a comporre, mm-hmm, quando arrivano alla fine della vita emerge l'eutanasia fatta fare al cane o al gatto, mm, e così via. Ora, il libro che abbiamo scritto giusto appunto dice: ehi ragazzi, non è sempre necessario. Perché? Perché se noi abbiamo dei veterinari formati alle cure palliative, cioè a quelle cure che tolgono il dolore, certo, e qui è un grosso problema, e qui è dove si batte come un veramente tantissimo Stefano Catinelli, da bravo veterinario empatico, e se poi dall'altra parte abbiamo un modo per eliminare delle sofferenze psicologiche che non sono parte della struttura dell'animale, l'animale non ha paura della morte, non ha il concetto di morte, ma se io che sono il suo compagno umano, io ho paura di quella morte, io ho paura di questo, io ho paura di quell'altro, l'animale è fortemente empatico e quindi, ecco, soffre un sacco di cose che sono mie. Oddio, allora, hai detto delle cose lavoro... terribili, perché io sono apprensiva. Sì, io... No, però... No, terribili, ma hai fatto bene. Abbiamo il potere di cambiarlo. Abbiamo, sì, un potere straordinario che è quello di cambiarlo. Allora... esiste, noi purtroppo abbiamo, non ci siamo accorti di questa cosa, dove siamo scivolati, perché non siamo più empatici, ossia abbiamo l'empatia come un tesoro interiore, mm-hmm, ma la nostra civiltà, l'educazione che noi riceviamo, che è molto competitiva eccetera, sviluppa un'altra parte del cervello e non questa parte empatica, ok? Sì. Che invece è tipica di quando siamo piccini e diventa di nuovo, attenzione, molto interessante questo a proposito dei momenti di grande fragilità, diventa di nuovo quando prevalente anziani. Quando noi siamo morenti, no? Ah. Quando siamo morenti, non quando siamo anziani. Perché pensavo, sai che si dice che quando passano gli anni uno inizia a diventare anziano, non riesce a trattenere la commozione, quindi pensavo che si ritornasse a quell'empatia che no, si ha da bambini. No, si diventa più fragili emotivamente, ma okay, l'empatia è una forma di informazione che passa e passa continuamente attraverso qualche cosa che non sono i nostri sensi abituali. Passa continuamente, ma noi ci siamo diseducati a coglierla. Mm-hmm. Allora, se invece noi cogliessimo questo gioco terribile di proiettare la nostra sofferenza sul compagno animale che muore, eviteremmo di farlo. Allora, come possiamo rieducarci a questa empatia per sapere come funziona? È molto interessante, c'è una tanatologia, cioè una scienza della morte, come ricordavi tu giustamente, una tanatologia fantastica che è quella tibetana, è enorme, la più grande del pianeta, che ci dice che come possiamo recuperare l'empatia se l'abbiamo persa, E questo lo si fa attraverso delle semplicissime tecniche meditative che ormai sono state tra l'altro indagate anche dagli scienziati, dai neuroscienziati, che ci dicono sì, è vero, si recupera la capacità di cogliere informazioni che non sono alla portata dei sensi ma passano attraverso altre vie. E quindi ci sono delle forme di meditazione molto semplici che si possono fare, e poi c'è un corpus apposito che serve a sviluppare un'altra cosa che deve andare di pari passo con l'empatia, e che è la compassione. Perché... Infatti vorrei che tu tracciassi la differenza tra queste due cose, che spesso si confondono. Sì, eh sì. L'empatia è il fatto di ricevere una somma, sì, una somma di informazioni che sono comunque a nostra disposizione, ma avere la facoltà di coscientizzarle, cioè le ricevo e anche me ne rendo conto. Per esempio, un grande empatico potrebbe essere un grande torturatore. Oddio. Che deve sapere esattamente dove fermarsi perché la vittima non muoia. Oh mamma mia. Allora, è per quello che io parlo sempre di empatia, che deve essere orientata eticamente verso la compassione. La compassione non è, badate, il compatimento. No, certo. Compatimento, c'è una bellissima definizione di Levin che a me piace molto, la uso spesso. Levin dice, quando la mia paura incontra il dolore dell'altro, quella è compatimento. Mm-hmm. Ma quando il mio amore incontra il dolore dell'altro, quella è compassione. Sentite, bellissima, la differenza, è molto bella. Per me è parlante, è chiara. Certo, certo. Nel compatimento c'è una distanza, no? Sì, sì, lui poverino, ok, però intanto io non assaggio neanche un cucchiaino della sua sofferenza, mi tengo sulle mie. Nella compassione mettiamo in moto altre cose che possediamo, per esempio i neuroni specchio, che ci permettono di riconfigurare nella nostra testa, nel nostro cervello, la stessa configurazione di sinapsi che ha quello che è nella sofferenza. Quindi è come se lo conoscessimo, come dire, da dentro di lui. Lo conoscessimo facendo una piccola esperienza, piccola, non è che ci devasta, della sua sofferenza. E allora ecco che invece di proiettare sull'altro quello che noi crediamo sia bene per l'altro, improvvisamente scopriamo che cosa lui ritiene sia bene per sé. Questo sia nell'accompagnamento delle persone, sia nell'accompagnamento degli animali. E questo è fantastico, perché diventiamo capaci di ascolto, sì. Quieti, e togliamo quella sofferenza, e sosteniamo anche. Viene, e sosteniamo, certo. E anche da qualche parte ci viene pian piano, all'inizio uno è molto molto titubante, ma pian piano, a furia di addestrarci, ci viene la sensazione interna che questa cosa che stiamo facendo è precisamente quella che ci vuole. Un animale a cui vogliamo fare una reidratazione, per esempio, se vediamo che l'animale si scansa, che non la vuole, beh, dovremmo fermarci. Uh-huh. Senti, ecco. Daniela, a parte che ti starei ad ascoltare per ore, perché ovviamente è un argomento che mi piace tanto, che mi fa scoprire un sacco di cose. Già quando avevamo, Angelo mi aveva portato il libro, quello che avevate scritto assieme a Cattinelli, ero rimasta molto colpita, perché purtroppo io ho vissuto l'esperienza di dover portare un mio cagnolino di 14 anni malato a fare l'eutanasia. E anch'io l'ho vissuta, l'ha vissuta Cattinelli, tutti si è passati da lì, guarda. E effettivamente all'epoca non pensavo ci fosse alternativa, quindi la vivevo come il fatto di evitare delle sofferenze a un cane che stava tanto male. Nel momento in cui ho scoperto che invece c'è un'alternativa, per me è stata proprio un regalo proprio dal cielo. Quindi questo volevo dire, tu pensi che non, a questo punto non ci sia una motivazione, essendoci quest'altra alternativa di un accompagnamento alla morte attraverso delle cose che non ti fanno provare dolore? Poi tu hai detto che gli animali non hanno paura della morte come invece abbiamo noi. No, non hanno il concetto di morte. Infatti. Quindi perché non hanno una mente concettuale, la loro mente non è strutturata come la nostra, no? È fortemente empatica in compenso, poveretti, quindi si cuccano tutte le tensioni che noi abbiamo proiettiamo. E proiettiamo bene o male, che non lo facciamo apposta, ma ci viene così se non siamo informati e se non ci addestriamo quel poco per evitare di farlo. Benissimo, adesso vi lasciamo per qualche minuto di consiglio e ci rivediamo subito dopo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni, Mix 24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30, con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di Faccia a Faccia, le inchieste, Dentro Notizie, Gialli della Storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Oh, allora, abbiamo di nuovo con noi un ospite che a me ha molto colpito e mi è piaciuta tanto. Sto parlando di Daniela Muggia. Daniela, ci sei? Sì, ci sono. Ciao, ciao Daniela. Che ha scritto questo splendido libro assieme a Stefano Cattinelli che si intitola Tenersi per zampa fino alla fine. Tenersi per zampa fino alla allora, fine. Allora, sebbene l'argomento è un po' tabù in Occidente, no? Cioè ci diciamo come non parlarne, facciamo finta che non esista, visto che è una cosa ingiusta, che l'unica non dovrebbe cosa esserci. Certa della nostra vita è quella. Cioè, no, aspetta, no, il ragionamento è, visto che è una cosa ingiusta e brutta, perché non dovrebbe esserci, perché tutti quanti si arrabbiano quando si parla di questa cosa, e che non la si può evitare, cioè c'è e non ci puoi far appunto, nulla. L'unica cosa certa. L'unica cosa che fa la gente è evitiamo di parlarne, facciamo finta che non esista, salvo poi trovarsi a quell'appuntamento o perché un nostro cane, per esempio, un nostro animale da compagnia che amiamo tanto arriva a quel momento lì, o perché tocca a noi o perché tocca ad amici, e lì ci scontriamo davanti ad un muro. Una realtà che non, della quale non siamo pronti, della quale non siamo preparati ad affrontare, allora, giusto? La cosa che ti rendi conto quando tu leggi autori come Daniela e Stefano è che se tu ti metti invece a confronto con questo argomento cominci a capire che quel momento lì può darti un sacco di doni. Stiamo parlando della morte. Daniela, ma sei d'accordo su questa roba qua? Cioè può trasformarsi? Ma certamente. Poi comunque, guarda, sicuramente può trasformarsi. Dipende da come la vivi. Se tu la vivi giusto appunto nell'impreparazione, nella paura, eccetera, è chiaro che sarà un momento terribilmente traumatico. Ora, io non sto dicendo che non è un momento doloroso, lo è, però c'è modo e modo di viverlo. Se l'accompagnamento che noi possiamo offrire ad un animale o a una persona o a noi stessi, visto che siamo sicuri che accadrà, visto che siamo nati, se questo accompagnamento è completo, fatto bene, eccetera, si parla addirittura di anticipazione del lutto, nel senso che mentre avviene l'accompagnamento in qualche modo elaboriamo questa perdita e quando la perdita è avvenuta certo che siamo tristi, ma è molto meno devastante. Certo. Molto meno devastante. Poi credo anche che per quanto riguarda in questo caso gli esseri umani arrivare a quel momento avendo meno paura sia molto importante sapere come si è vissuta la vita. Sicuramente come abbiamo vissuto la vita è importante, ma nello stesso tempo è possibile anche quando la vita è stata molto difficile o non l'abbiamo vissuta appieno, degnamente e così via, bisogna ricordarsi che chiunque, così come anche un essere animale, ha una sua natura, come dire, una sua natura apparente e poi anche una sua natura assoluta. E qui mi rifaccio alla fisica quantistica, a null'altro, perché tutto ciò che appare come fenomeno separato dal resto, in realtà noi sappiamo essere ormai parte del tutto. È come se ciascuno di noi, ciascun fenomeno, dal fiorellino al tavolo ai fenomeni complessi come gli umani e gli animali, avesse una doppia natura, una natura apparente. Se però rimaniamo sempre in questa natura apparente, tutto il mondo ci sembra separato, facciamo spesso scelte sbagliate. Sì, scollegati dall'universo. Esatto, no? E quindi facciamo un sacco di scelte sbagliate. Che il pianeta sta vivendo purtroppo, no? Certo. Tutte queste scelte antiplanetarie, antiecologiche. Certo. Dove ci dimentichiamo che se noi uccidiamo il pianeta, poi alla fine moriamo anche noi. Giustamente. Insomma, non alla fine, ben certo, prima del pianeta. Esatto. Senti, tu pensi che con i nostri animali, i cani, i gatti, insomma, quando ti qualunque animale con cui uno vive, nel momento in cui dovesse star male, non sia a questo punto più necessaria l'eutanasia? Allora, io non sono un veterinario e quindi non posso dare questa certezza come potrebbe forse darla un veterinario. Quello che però abbiamo notato in tutti questi anni di esperienza di accompagnamento è che se c'è un intervento palliativo e se c'è accanto all'animale che muore una persona che è quieta, calma, che non gli proietta le paure e le ansie sopra, la morte avviene nei tempi e nei modi normali senza la sofferenza. Il problema non è fare o non fare l'eutanasia, il problema è c'è sofferenza o non c'è sofferenza. Madonna, esatto. È dura, se non però, c'è sofferenza, esatto. È dura. Se non c'è sofferenza, beh, dura o non dura, la realtà è questa. Sì, certo. Se non c'è sofferenza, allora quest'ansia, no? Di chiudere, di cancellare la vita è quello, cioè l'eutanasia è spesso, però anche vengo messo in ansia dai veterinari certe volte, perché certo, loro poveretti non lo sanno che c'è un'altra via, cosa diavolo possono fare anche loro? E infatti anche i veterinari dovrebbero formarsi da questo punto di vista, perché Bisogna che si formi, certo. Innanzitutto non si capisce bene perché per gli animali l'eutanasia è usata così tanto e per gli esseri umani non deve mai essere neanche presa in considerazione. Già questo dovrebbe farci sorgere delle domande, ma spesso negli animali... Guarda, dipende da paese a paese, perché ci sono paesi come la Svizzera in cui dove l'eutanasia è facilissima, c'è gente che addirittura va lì. Da un paio di anni in Belgio i genitori possono far fare l'eutanasia ai bambini, decidere per loro, quindi non è così, ecco. Si comincia sempre con l'eutanasia agli animali, poi pian piano dagli animali si passa, sapete, un po' come la storia dei microchip, no? Certo. All'inizio ti dicono ne mettiamo gli animali così scopriamo dove sono, se si sono persi, che poi non è vero niente, perché purtroppo il microchip non trasmette, quindi se tu perdi il gatto anche microchippato, devi solo sperare che qualcuno lo trovi, che lo porti da un veterinario, magari possibilmente della stessa regione, perché sennò anche quello non funziona, e così via, no? Cioè, sì. E sapere dove finisce il tuo gatto. Per tornare sul punto, quello che ho visto accadere tante volte è questo. Faccio l'eutanasia perché io non voglio soffrire, non l'animale. Certo. Io non voglio guardare, non voglio essere coinvolto, voglio che questa cosa finisca il prima possibile perché io me ne voglio lavare le mani e quindi faccio fare l'eutanasia così non ci penso più. Sì, però io spezzo una lancia in favore di queste persone, perché da lì siamo passati tutti abbiamo avuto animali, prima di capire che c'era un'altra via facevamo fare eutanasia go-go, perché non sapevamo che ci fossero altre possibilità, ma è certo che davanti alla sofferenza di un essere che mi è caro, che non mi sa dire mi fa male qua, mi fa male lì, io mi sento inizialmente paralizzata. Impotente. E certo, e se davanti a questa mia impotenza, anziché essere accolta, presa per mano, e qualcuno mi dice guardi, c'è questa possibilità, questa e questa, mi viene detto signora, è ora di sopprimere il gatto, che altro posso fare? Quindi è ovvio che uno deve sapere che c'è quest'altra terza via. Allora, la cosa che per esempio a me incuriosisce, perché vedo tante persone che la pensano in questo modo, è che quando si sente parlare di cure palliative sembra un nome che ti lascia pensare a vabbè, non serve a nulla, fallo. Cioè, palliativo è come, vabbè, tanto non è efficace, non serve praticamente a nulla, tieniti sta roba, e invece ha un significato... Sì, è l'altro significato di palliativo, però dal punto di vista invece della medicina riprende il suo significato antico dal pallium, che è il mantello che ti copre, che ti avvolge, che ti accoglie, che ti protegge, e quindi sono tutte quelle terapie che non servono a farti guarire, perché ormai sei arrivato alla fine della vita, ma che ti tolgono la sofferenza. Ci sono voluti talmente tanti anni per riuscire ad avere le cure palliative in Italia, e ancora adesso è così difficile ottenerle, perché a volte nemmeno il medico di base sa che può chiamare per un paziente l'unità di cure palliative. No, non lo fa perché non gli viene in mente, perché ha la visione che è tipica anche del veterinario, di io devo salvarlo, ma quando si è alla fine della vita cosa vuoi salvare? Salvagli la qualità della vita. Certo, ecco, no? è di questo che non si parla mai, anche sull'accanimento terapeutico delle persone, no? Esatto. Devo tenerlo in vita, però non valuti la qualità della vita. Se io per stare in vita devo stare intubato, sono paralizzato a casa, cioè non ragiono più, non mi ricordo più niente, questo è il punto fondamentale. Sì, però bisogna fare attenzione, perché la terza via non è neanche la soluzione del togliermi la vita. La terza via è smetto di fare le terapie inutili che gli inglesi chiamano futile, no? Giusto appunto, futili, che non servono a niente perché non guarisco, non posso più guarire, mantengo quella parte di quelle terapie che mi serve ad avere una qualità di vita decente, aggiungo altre cure, altre cose che mi permettono di avere una buona qualità di vita per il tempo residuo che mi rimane, e non c'è in questo nessun accanimento terapeutico. Cioè, esco dalle due logiche, che sono quelle che si danno battaglia, ma non c'è bisogno di darsi battaglia. Esco dalla logica tra, da un lato, chi mi vuole tenere vivo a tutti i costi, l'accanimento terapeutico, dall'altra chi mi vuole ammazzare a tutti i costi, che è l'eutanasia. C'è una terza via, e c'è per gli umani e c'è per gli animali, ed è in realtà tutto il mio lavoro è dedicato a questo, essenzialmente, a far capire la terza via, che è quella poi fondamentalmente di seguire il corso della via senza fare accanimenti, senza troppe manipolazioni. Sì, si chiama desistenza terapeutica. Desistenza terapeutica. Smetto di curare, accetto che la vita abbia un suo fine naturale e mi impegno a mantenere che intanto che la vita finisce nel modo più naturale possibile, mi impegno a mantenere la qualità di quella vita residua, in modo che la persona o l'animale non abbia assolutamente a soffrire. Quindi in modo anche dignitoso. Daniela, guarda... Ma anche non gli porto via la sua morte, non la porto via, voglio dire, è parte della vita la morte, non è un'altra cosa. No, certo. Senti, Daniela, guarda, non è escluso che ti chiamiamo altre 7-8 Sì, perché volte. Guarda, io mi ricordo... Io e Daniela abbiamo un cammino comune, perché io pratico buddismo tibetano da ormai 15 anni, no? Quindi quando lei parla di alcune cose, no? Il relativo e l'assoluto, piuttosto che io mi ricordo quando è morto Lucky, no? Il mio cane storico, dopo 16 anni assieme. Ecco, quella morte lì si è trasformata, quel dolore lì si è trasformato in qualcosa di anche molto dolce. Allora, la prossima volta ci sentiamo e ti chiederò maggiore informazioni sulla tanatologia tibetana, che hai detto essere la più vasta, cosa è la che più è, completa a nostra disposizione, sicuramente. Grazie, Daniela, Daniela, un abbraccio Muggia. Grande. Ciao, buona domenica. Ciao. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Mamma mia, che meraviglia la prospettiva animale. No, perché guardo delle fotografie. Allora, c'è una bellissima notizia. Uh-huh. Un'ex ristoratrice cinese, una donna, salva 6.000 cani randagi. 6.000? 6.000, ma secondo me il numero è destinato a crescere. Lei ha rinunciato al suo lavoro di ristoratrice per dedicarsi a un obiettivo più nobile, che è quello di salvare 6.000 cani randagi. Questo succede in Cina, dove da 16 anni questa donna prende cani dappertutto, li accudisce lei, gli dà da mangiare. E poi li affida. Cosa fa? Ma in realtà non credo, perché lei addirittura, sai che in Cina purtroppo c'è anche il mercato della carne, e dice che anche se ultimamente in Cina le cose sono cambiate, c'è un pochino più di sensibilizzazione, dice purtroppo ci sono maltrattamenti diffusi più facilmente e c'è questo mercato tremendo della carne. Lei in realtà vive nella provincia di Hebei, accoglie spontaneamente tutti i quadrupedi che incontra nel suo percorso, e a volte interagisce con i proprietari di questi cani se vede che non li stanno trattando bene. Ah, addirittura? Sì, va a prenderli e li compra, gli dà del denaro. Scazzotta. No, quello no, convincendoli alla cessazione degli animali affinché possano essere affidati alle cure di centri veterinari e strutture di recupero. Cioè, fa un lavoro fantastico. Favoloso. No, tra l'altro, ecco, tu prima accennavi alla carne di cane in Cina, che è una cosa terribile. Cioè, ricordo che c'è il festival di Yulin. Sì. In cui i cani vengono ammazzati a bastonate, bolliti vivi. Cioè, fanno delle cose veramente allucinanti. Cioè, per favore, andate a cercare su Google Yulin con la Y e sottoscrivete le petizioni che ci sono online, perché è molto molto importante fare qualcosa. Questo festival deve assolutamente essere abolito, perché non si tratta soltanto di mangiare carne di cane, no, ma il modo in cui vengono tenuti, perché prima li stipano in gabbie strettissime dove molti muoiono soffocati, sì, perché sono talmente strette così, e poi li bolliscono vivi, cioè fanno delle cose che sono veramente comunque lucide. Per questo festival della carne addirittura vengono comprati, lei per esempio, questa Zhao Hua si chiama, che oggi è a 54 anni, lei addirittura va a cercare di acquistarli, li acquista in modo che li prende e poi li rimette in libertà. Il problema è che è un cane che si morde la coda, poi li rimette in libertà di nuovo, fanno la fine che devono fare. Senti, invece a Milano c'è una cosa veramente pessima, perché due ragazzi napoletani, per attirare la gente a comprare i biglietti della lotteria, sai che cosa ha fatto? Ha preso due cocorite, una bella coppia di cocorite. Li ha addestrate, no, perché nel frattempo ci guardano dal vetro come se fosse, mi sento in un acquario. Salutiamo. Esatto, siamo come gli animali in gabbia. Ciao. Salutiamo, perché c'è... ciao ragazzi, ci sono i ragazzi del master che vengono a guardare. Vengo, e io, siccome c'ho il cane sulla scrivania mentre stiamo lavorando, sono attirati da quello. Allora, dicevo, queste due cocorite purtroppo non solo vivevano intanto in una scatola di legno, venivano tirate fuori per far sì che la gente comprasse il biglietto della lotteria. E è stato scoperto che erano state maltrattate, perché erano state amputate le ali. Ma sei sicuri? Amputate o hanno tagliato le piume come alcuni fanno? Angelo, sia la Repubblica che altre, la stampa, hanno detto che erano state amputate. Comunque c'era stato del maltrattamento, perché sono state sequestrate. Adesso sono nell'associazione Animal Emergency Onlus. Questa cosa a nutrire il mio amore e odio nei confronti di Napoli, perché sono geniali, divertenti e trovano soluzioni a tutto, ma a volte hanno questa cultura del mega man of foot. Beh, che prendono... sono loro tutti? Non lo so. Cioè, lo vabbè, so, io... allora vogliamo parlare dei 904 cani tenuti in un canile devastante in Calabria, per esempio. Vogliamo parlare del canile di Roma? Vogliamo parlare di Lecco, il canile? Lo so, quello, cioè, lo so, purtroppo. Deve cambiare mentalità. Detto ciò, a me è venuto vabbè, un ragazzi certo napoletani, datevi da fare qua, dovete impedire queste cose qui. Sì, la parte quella sana e buona deve farsi sentire. A me è venuto un certo languorino. Anche a me. Con questo... piatti e ciotole. Perché tu, sono già partito, piace così tanto quel jingle che è così avanti, no? Sì, ma che jingle? Il nostro siparietto di piatti e ciotole. Sì, infatti, ti fa già... guarda, c'è un condizionamento classico. Eccolo. Te lo senti, piatti ti viene... e ciotole. Cominci a salivare come i cani di Pavlov, praticamente, no? Quando mettiamolo senti questa in loop in continuazione mentre parliamo sotto, Peter. Allora, perché questo? Perché è arrivato il nostro angolino di piatti e ciotole curato da Mara Di Noia. Ma come se la ride Rosita, no? Io adoro questo jingle, sai? E poi me lo metterei come suoneria. Me lo puoi passare come suoneria? Bellissimo. Andiamo avanti tutta la fine di me. Mara. Ciao, buongiorno. Mara Di Noia, sei contenta, ciao, di questo inizio così romante? Allora, la nostra splendida chef che cura il canale, la pagina Facebook Vega Chef, giusto? Sì, giusto. Vega Chef, e anche il sito Vega Chef ci dà ogni domenica delle ricette pronte ad essere adoperate sia per gli umani che per i gatti che per i cani, con una piccola declinazione al momento di metterne in piatta nelle ciotole. E oggi che cosa ci stai preparando? Allora, oggi io vi propongo la pizza di zucchine. No, buona. Già la parola pizza. Ma c'è la farina pure? Una farina particolare, adesso me la racconto. Ok, vai. Allora, ci servono 50 grammi di farina di mandorle, 2 o 3 cucchiai di farina di riso, 2 cucchiai di mix di semi vari, quindi lino, girasole, papavero, sesamo, 2 zucchine grandi, un ciuffo di basilico, origano secco e un pizzico di sale. Cosa dobbiamo fare? Grattugiare le zucchine e metterle per 10 minuti in forno su una placca, in modo tale che tutta l'acqua che contengono si asciughi. Se dopo questi 10 minuti sono ancora umide, mettiamole in un canovaccio e strizziamole bene. Avere delle zucchine senza acqua è fondamentale per ottenere una base croccantina. Mescoliamo le zucchine col resto degli ingredienti in una ciotola. L'impasto che ne risulta deve essere simile a una pastella. Se è troppo morbido, aggiungiamo pure tranquillamente ancora un po' di farina di riso. Mm. Mettiamo la teglia per la pizza in forno caldo per 5 minuti, la togliamo e a questo punto mettiamo un filo di olio sul fondo e lo stendiamo con un pennello da cucina. Aggiungiamo la pastella e mettiamo in forno a 200 gradi per 10-15 minuti. Dopodiché questa base della pizza a base di zucchine è pronta per i nostri animali e la facciamo raffreddare, la tagliamo a pezzi e la possiamo condire con i classici fiocchi, quelli che abbiamo in casa. Sì. Per il piatto umano invece possiamo fare un pesto leggero frullando un'erba aromatica come il basilico, pinoli, olio e un goccio di acqua e stendiamo questo pesto sulla base della pizza. Sulla base, scusami, sulla base cosa? Sulla base? Sulla pizza, sulla pizza di zucchine. Sopra, ah ok, sì. Esatto, senti, la possiamo accompagnare con delle verdure crude. Ma mi viene questa cosa da chiederti, ma che cosa accade se io questo pesto di basilico e olio lo metto anche per i chimetro? Assolutamente niente. Quindi non posso fare anche possiamo per... condividere anche il pesto di basilico. L'unica cosa che io ho visto nella mia pratica quotidiana è che questi profumi a volte delle erbe aromatiche sono troppo forti, sono troppo intensi e, allora non, e magari non gli piacciono, sospettavo. Possono non piacere e... ma dopo un po' si abituano, come a tutte le cose. Magari la prima volta possiamo metterne un cucchiaino e li lasciamo abituare a un profumo nuovo. Ok, bene, fantastico Mara, come sempre. Tu ci fame lasci. Ma che fame ci abbiamo, questo di immenso. Se volete, se vi siete persi qualcosa, andate sul sito di Radio 24 a Chiedimi se sono felice, ascoltatevi i podcast così che potete tirarvi giù le ricette di Mara. Vi saluto io con la mia coerenza intrinseca e io con la mia incoerenza estrinseca. Grazie Mara, un abbraccio, grazie, buona domenica. Ciao, grazie Mara di nuovo. Ciao, ciao. E noi ci vediamo. E ciotole. Wow. Grazie Peter. Adesso che lo voglio come, sì, come suoneria del telefono. Come quando mi chiama Mara, telefono. Metto questo. E quindi a tutti quanti voi, ancora buona restante domenica da Angelo Vaira e Rosita Celentano. Ciao.